edizione. 6 e 15 minuti in punto. Allora, velocissimi, innanzitutto una notizia dell'ultima battuta dalle agenzie in questo momento: un traghetto con oltre 250 passeggeri a bordo è affondato in Bangladesh dopo essersi scontrato con una petroliera. Sono 200 i passeggeri che mancano all'appello. Questa è la notizia degli ultimi minuti. Facciamo però un balzo a ieri sera. Questa mattina non vi facciamo sentire uno zapping TV, ma grazie alla nostra Roberta Pellegatta invece l'intervento di Roberto Saviano sul palco a Milano alla manifestazione di Libertà e Giustizia. Lo scrittore è stato accompagnato dal palco dal sindaco di Milano Giuliano Pisapia, che ha ricordato la sua cittadinanza onoraria, e Saviano ieri sera ha lanciato questo appello. La legge sulla corruzione è fondamentale, si è atteso sin troppo, questo governo deve farla. Questo governo deve fare la legge anticorruzione, è fondamentale che questo accada. Introdurrebbe anche la corruzione tra privati, e soprattutto c'è una grande ansia in chi osserva l'operato di questo governo. La grande ansia è questa: la paura che sia sotto ricatto dall'ex maggioranza, insomma, diciamo dal PDL, che si debba fare tutto tranne toccare giustizia e RAI. Prima edizione. Lavoro si cambia, è questo il titolo che più o meno tutti i quotidiani hanno scelto questa mattina, non proprio in questi termini, ma il concetto è che la riforma degli ammortizzatori sociali è annunciata ieri dalla Fornero, le reazioni dei sindacati a tenere banco. E allora ecco la carrellata dei titoli di questa mattina. Cominciamo dalla Repubblica. Lavoro, 10 giorni per chiudere, 10 giorni per l'intesa sul lavoro, il Corriere della Sera. La Stampa: lavoro si chiude in 10 giorni, lavoro stop dei sindacati, ma il concetto è lo stesso, si chiude il 23 per il Messaggero. Che succede? Dicevamo, ieri c'è stato l'incontro con la Fornero sulla riforma, i sindacati frenano però sull'ipotesi avanzata dal governo, che è quella di eliminare innanzitutto la cassa integrazione in deroga e invece proporre 1000 euro al mese a chi perde il posto. I commenti sono molti, ve li faremo sentire anche noi più avanti. Nel frattempo però c'è un'altra notizia che viene affiancata questa mattina nei titoli dei quotidiani: consumi, si torna a fare la spesa come 30 anni fa. Negli occhielli, nei vari titoli li trovate anche questa notizia affiancata all'intesa sul lavoro in questo caso. Leggiamo dal Corriere della Sera. Che succede? Succede che su cibo, bevande e tabacco spendiamo come 30 anni fa. Per la precisione, i consumi sono tornati al 1981. È la crisi che preme sui redditi delle famiglie, secondo una ricerca di Intesa San Paolo. Questo l'effetto della crisi. Queste le aperture dei quotidiani. Dicevo, ne parleremo anche noi più avanti. Apertura invece del Sole 24 Ore dedicata alle pensioni. Sono molte le richieste di informazioni che arrivano anche a noi di Radio 24. Oggi il Sole 24 Ore propone migliaia di domande dei lettori sulle nuove regole introdotte dalla riforma della previdenza, con una guida pratica: età, contributi e scadenze, ecco come sono cambiate le pensioni. A fianco sul Sole 24 Ore la notizia che invece arriva dall'Europa di ieri sera, con l'Unione Europea che ha dato più tempo alla Spagna a Madrid. Restano le divisioni però ancora sul fondo salva stati, e per Atene solo un via libera politico, dunque anche qui svolta a metà. L'immagine che compare invece sui quotidiani questa mattina, divise più o meno in due: da una parte la Siria, strage di donne e bambini nella città ribelle, l'orrore a Homs, lo trovate sulla Repubblica, e le immagini, ve lo dico, sono davvero impressionanti, ancor più i video che troverete in rete. Dall'altra la cosiddetta febbre del Leonardo perduto, come titola il Corriere della Sera: la traccia della famosa battaglia di Anghiri sarebbe stata trovata sotto un Vasari a Palazzo Vecchio. Stessa immagine, il nero della Gioconda dietro il Vasari, anche per la Stampa e anche per il Messaggero. Anche qui il Leonardo perduto, una notizia che ha molto affascinato, anche perché lo vedrete, le immagini comunque anche qui affascinanti sicuramente lo sono. La Siria, il tema, diciamo così, estero di giornata. L'altro tema che troverete anche qui in evidenza e che sceglie di mettere in grande evidenza la stampa è ancora la Nigeria, con le accuse di D'Alema che fa allargare lo strappo con Londra per il blitz che è costato la vita all'italiano La Morinara. Ostaggi uccisi, non è stato un blitz ma una battaglia, così titola la stampa. E il processo al Copasir, i nostri 007 incapaci di avere informazioni, in retroscena del duro scontro di ieri, lo trovate sulla stampa in grande evidenza e poi più o meno su tutti i quotidiani. La notizia politica invece di giornata, lasciata a centro pagina o di spalla sui quotidiani questa mattina, di spalla in questo caso sulla Repubblica, Monti al PDL, sul tavolo anche Rai e Giustizia, giovedì ci sarà il vertice. Centro pagina per questa notizia invece per il Messaggero, duello PDL-PD, ma giovedì vertice a tre da Monti. Queste le principali notizie, tempo ancora per qualche segnalazione di quel che trovate però sulle prime pagine dei quotidiani. E allora ancora la Repubblica ci dà una notizia curiosa questa mattina: boom dei bebè in provetta nati grazie ai giudici. Che succede? Il 20% in più di bambini sono nati con la fecondazione assistita nonostante le restrizioni della legge 40, questo perché, così scrive la Repubblica, almeno 2.000 bambini in più nascono ogni anno in Italia grazie a una sentenza della Consulta. La ricorderete, ne abbiamo parlato parecchio anche noi a Radio 24, nel 2009 ha liberalizzato di fatto la legge 40 e quindi si è tornato a fare fecondazione assistita in Italia. In fondo pagina invece della Repubblica, un caso in comune, pochi minuti e il gettone è assicurato. Questo vi farà arrabbiare. Che è successo mercoledì scorso a Genova? Un consigliere comunale PDL si è presentato alla seduta della commissione alle 14.48, ne è uscito alle 14.49, un minuto primo, non si è nemmeno tolto il casco della moto per fare più in fretta, è abbastanza però per avere il gettone di presenza, e chissà se per noi un minuto al lavoro potrebbe bastare, ma vi lascio ad Alessandro Milan più tardi per tutti i commenti e naturalmente anche per le altre notizie. Un'altra segnalazione invece dal taglio basso del Corriere della Sera: dove si vive bene, dove si vive male. Un rapporto pubblicato quest'oggi dal Corriere della Sera: in città si vive male, Firenze esclusa. Prima di questo sondaggio, ma tutte le altre città italiane francamente non ne escono benissimo. Comunque, seconda Bologna, terza Torino, fanalino di coda, neanche a dirlo, Napoli per i rifiuti. Sulla stampa, taglio basso, l'addio all'inventore del buco dell'ozono, uno tra i primi scienziati ad affrontare i problemi ambientali. Il Nobel Rowland si è spento a 84 anni. E poi un allarme invece sulla prima pagina del Messaggero per la regione Marche: richiama decine di pazienti, protesi tossiche all'anca, saranno rioperate. Così scrive il Messaggero questa mattina, anche questa una vicenda della quale sicuramente torneremo a parlare. Ma voltiamo pagina, lasciamo le prime pagine dei quotidiani, almeno per ora, perché se avete visto hanno molto affascinato le immagini del cosiddetto Leonardo perduto, beh, vogliamo raccontarvelo anche noi. Cosa è successo? È successo che sono arrivati, questa volta pare, indizi consistenti sull'esistenza della cosiddetta battaglia di Anghiari, un dipinto di Leonardo che si credeva perduto. Sarebbe dietro un affresco del Vasari nel salone del Cinquecento di Palazzo Vecchio. L'annuncio è arrivato da Maurizio Seracini, che da 36 anni lo cerca con il sostegno del National Geographic. Il sindaco di Firenze Matteo Renzi sarebbe favorevole ad ulteriori approfondimenti. Molti però dicono no, perché potremmo perdere invece l'affresco del Vasari. Allora però noi abbiamo sentito intanto Maurizio Seracini, lo ha fatto Paolo Panceri. Il caso del Nero è venuto fuori, che è talmente peculiare che un paio d'anni fa il Louvre ha riscontrato lo stesso pigmento sulla Gioconda e sul San Giovanni Battista di Leonardo. Quindi, pur in maniera non come uno si può aspettare una superficie pittorica regolare, però dimostra che tra l'altro lì c'è stata attività pittorica di un certo tipo che si associa a quella di Leonardo, anche per un'altra semplice ragione: che dal momento dell'edificazione della Sala Grande, al momento che Leonardo ha iniziato a dipingere, così come dopo che Leonardo se n'è andato, fino a quando Vasari ha fatto il suo intervento di ristrutturazione del salone, nessuno mai ha, nessuno altro mai dipinto su quella parete. Quindi, evidentemente, questi materiali appartengono all'unica pittura murale che è stata fatta lì, cioè la Battaglia Anghieri. Quello che finora non potevamo essere sicuri, visto che tutti davano per certo che ormai era stata distrutta, invece questo dimostra che nella peggiore delle ipotesi abbiamo dei frammenti. Nella migliore delle ipotesi, come quello che ritengo io, semplicemente per adesso abbiamo visto frammenti perché ancora non abbiamo investigato una zona neanche tanto piccola del pannello della parete est, pannello destro della parete est del Vasari nel Salone 500, dove noi riteniamo invece Leonardo avrebbe dipinto. Continuerete a investigare. Continuare, questa volta focalizzandoci sulla zona dove secondo sia i documenti che quello che abbiamo trovato con indagini scientifiche sembra essere la più probabile per contenere quello che si chiamava la battaglia per lo stendardo, cioè l'unica parte della battaglia, del dipinto murale, di una dimensione di circa 3 metri per 4 che ancora noi non abbiamo per niente esaminato. Prima edizione con le inchieste di Radio 24. Italia in controluce. E l'Italia in diretta, l'Italia che vi racconta la cronaca, la politica, lo spettacolo e il costume. Daniele Biacchesi, Italia in controluce. Oggi raccontiamo la storia di un grandissimo fotografo italiano freelance che 10 anni fa andava a morire a Ramallah, nei territori occupati, colpito da un cecchino piazzato su un carro armato israeliano. Questa è la storia di Raffaele Ciriello, il reportage di Gennaro Grimolizzi. Nelle strade di Ramallah si fronteggiano soldati israeliani e miliziani palestinesi. I giornalisti delle maggiori testate internazionali coprono la seconda intifada, scoppiata da qualche settimana. Anche il fotoreporter Ascanio Raffaele Ciriello è in Cisgiordania con un accredito del Corriere della Sera. Alle 10.30, le 9.30 italiane, Ciriello si trova in piazza Dawar al-Manar con il giornalista della RAI Amedeo Ricucci e l'operatore Norberto Sanna. Stare sulla notizia significa documentare, a distanza ravvicinata, gli scontri armati. In certi casi spingersi fino ai limiti del proibito e volerli oltrepassare. Rischiare la vita. Il tutto in nome dell'informazione, la più obiettiva possibile. La piazza di Ramallah, dopo alcuni minuti di silenzio, si infiamma improvvisamente. I miliziani palestinesi, situati in una via secondaria che conduce alla piazza, esplodono colpi di Kalashnikov contro un tank israeliano. Ciriello, con addosso una macchina fotografica per istantanee e una telecamera palmare, riprende tutto. Sporgendosi da una delle strade che si affaccia su Piazza al-Manar, viene inquadrato da un soldato israeliano sulla torretta del carro armato. E un attimo, la mitragliatrice fa fuoco. Ciriello si accascia sul selciato. Le immagini della piccola telecamera si fanno subito confuse. Si tratta della sua ultima testimonianza giornalistica. Due giovani palestinesi trascinano con forza il fotografo al riparo dalle mitragliate israeliane e lo trasportano in auto in ospedale. L'addome, lo stomaco e i reni sono però devastati dalla raffica di mitra. Raffaele muore alle 12.30, aveva 42 anni. Il giorno prima, il 12 marzo 2002, Ciriello rilascia proprio a Radio 24 la sua ultima intervista da Ramallah. Dunque io, insieme con una trentina abbondante di colleghi delle reti televisive, diciamo sia locali che internazionali, mi trovo qui al City Inn Hotel di Ramallah. Io sono qui da più di una settimana. E dunque noi ci troviamo in vista proprio del campo di Alamari, che è il campo profughi più grosso che Ramallah, che conta circa 8.000 residenti. Diciamo che intorno a mezzanotte e mezza abbiamo cominciato a sentire il rumore preceduto, come al solito, agli elicotteri. Abbiamo sentito lo sferagliare dei cingoli, dei tank, degli APC, cioè dei trasporti truppe degli israeliani, che hanno preso posizione in tutta la città e quindi intorno anche al campo. Questo a partire da mezzanotte e mezza. Intorno alle 2 c'è stata una sparatoria non lunghissima ma abbastanza nutrita, proprio in direzione del quarto piano qui dell'albergo, perché evidentemente un po' innervositi magari da qualche flash di troppo o da qualche telecamera di troppo, gli israeliani hanno cominciato a tirare. Diciamo che per una mezz'ora siamo rimasti appiattiti sul pavimento, quasi tutte le stanze che danno sulla strada sono state colpite. Avete ascoltato il reportage di Gennaro Grimolizzi sulla storia e la vita e la morte di Raffaele Ciriello. Italia in Controluce torna oggi alle 13.30 su Radio 24. E 39 minuti, grazie Daniele Biacchessi, ancora buona giornata da Anna Migliorati, seconda parte di prima edizione, subito parliamo di quello che è il tema di queste ore, vale a dire la riforma del lavoro. Il governo va avanti spedito 10 giorni e poi sarà tutto fatto entro il 23. Il ministro Fornero ha ribadito: vogliamo chiudere. Allora, ieri sera è arrivata la novità attesa, vale a dire la rivoluzione, almeno come annunciata, degli ammortizzatori sociali per come li conosciamo, a cominciare dalla cosiddetta cassa integrazione straordinaria. Arriverà invece l'assicurazione sociale per l'impiego, su cui sarà incentrata la nuova riforma degli ammortizzatori. La nuova indennità di disoccupazione, che sostituirà quasi tutte le tutele attuali, compresa la mobilità, tranne la cassa integrazione ordinaria, prevede un tetto massimo di 1.119 euro lordi, una durata di 12 mesi che sale a 18 per gli over 58 e la prestazione si ridurrà del 15% ogni 6 mesi. Veramente una grossa rivoluzione. Allora, che ne pensano le parti sociali? Ieri sera i primi commenti, ve li facciamo ascoltare, una carrellata già da subito, poi ne parleremo in GR24, così la leader della CGIL, Susanna Camusso. Passo indietro, come già dicevano i miei colleghi, è determinato dall'avere il governo ha fatto una proposta di accelerazione dell'ingresso del nuovo sistema che dovrebbe sostituire con l'indennità di disoccupazione l'attuale struttura della mobilità, che si traduce nel fatto che nel breve periodo e quindi durante la crisi una parte consistente di lavoratori e di lavoratrici avrebbero una riduzione delle coperture. E non è stato molto più conciliante il segretario generale della CISL Bonanni, che pure ieri sembrava, l'altro giorno sembrava ottimista. Parla di rischio ecatombe sociale, sentite. L'unica cosa che non ci convince affatto, anzi siamo preoccupatissimi, riguarda la terza gamba degli ammortizzatori, che è quella della mobilità. Cioè, già prima poteva significare appunto un grande problema per noi, oggi con l'innalzamento così alto dell'età per andare in pensione, con una crisi così forte che fa chiudere aziende, fa delocalizzare e così via, arrivare a quello che dice il ministro significa davvero una vera e propria ecatombe. E che ne pensano le imprese e la presidente di Confindustria, Marcegaglia? Il ministro ci ha invece detto che il periodo di transizione è più breve e questo è un problema, quindi l'abbiamo invitata a rivedere questa posizione perché, ripeto, pur condividendo il disegno complessivo, abbiamo bisogno di un periodo più lungo di transizione. Ripeto, la volta scorsa il ministro aveva parlato di 5 anni, oggi ha ristretto gli anni. Questo perché il governo intende fare più in fretta, non solo per trovare l'accordo, ma come dicevamo, anche nei tempi di attuazione. Attenzione, perché da oggi partono i tavoli anche per la flessibilità invece in uscita, l'articolo 18, e quindi sicuramente ci sarà ancora molto da cui discutere. Questo intanto un piccolo assaggio, commenti, approfondimenti, interviste, analisi, tutto quanto nel corso della giornata e poi già nel GR24 delle 7. Nel frattempo invece voltiamo pagina. Altra notizia di cui molto si parla in queste ore, si parlerà ancora: il sottufficiale americano accusato di aver ucciso domenica scorsa 16 civili afghani potrebbe incorrere nella pena di morte se fosse condannato dalla giustizia militare degli Stati Uniti. Ha parlato nella notte italiana il segretario della difesa americana Leon Panetta. Il sergente dovrà essere processato davanti ad una corte marziale. Le sue generalità non sono note, sa solo che è un sergente, ha 38 18 anni, era già stato diverse volte in missione anche in Iraq e secondo indiscrezioni di alcuni media americani avrebbe avuto recentemente un trauma cranico in un incidente stradale proprio in Afghanistan, sarebbe guarito, ma queste sono mille notizie che poi si affastellano anche in queste ore più o meno rilevanti. Noi però vogliamo capire cosa succede in Afghanistan dopo quel che è accaduto. E allora questa mattina facciamo proprio un balzo in Afghanistan. Nostro ospite il comandante del contingente italiano ad Herat, io il portavoce del comando generale del comando italiano ad Herat, il colonnello Vincenzo Lauro. Buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno ai radioascoltatori. Allora, la domanda a questo punto è d'obbligo. Dopo quel che è successo, dopo che questo soldato americano ha sparato sui civili, vi guardano con occhi diversi in Afghanistan? Io posso parlare per quanto riguarda l'area di responsabilità sotto il comando italiano, ovvero la regione ovest dell'Afghanistan. Attualmente non registriamo nessun contrasto con la popolazione civile, né tantomeno con le autorità locali. Andiamo avanti con il programma, sia sul settore sicurezza, sia sul settore della ricostruzione, e attualmente ritroviamo la stessa collaborazione, la stessa fiducia di sempre. Quel che è accaduto non vi ha un po' complicato la vita? Cioè gli americani non vi hanno messo un po' in difficoltà con questo episodio, con i Corani bruciati, con questa tensione che comunque nell'aria immagino un po' si respiri o no? Guardi, l'impegno operativo è molto intenso, sicuramente è un evento che abbiamo condannato perché abbiamo espresso il nostro cordoglio e tutta la solidarietà al popolo afghano e il cordoglio alle famiglie che sono state colpite da questo evento, ma gli impegni che abbiamo sul campo sono ormai così intensi che troviamo soltanto veramente la possibilità di confrontarci per gli obiettivi da portare avanti. Confrontarvi con la popolazione e con gli alleati, con gli altri comandi? Il nostro è un comando NATO che è composto da 8.000 uomini, di cui 4.000 sono italiani. Gli altri della coalizione, allo stesso modo, manteniamo gli impegni che il contingente deve portare avanti e non c'è tempo sicuramente per le parole, ma per dimostrare che con i fatti noi siamo sempre accanto a questo paese per il loro futuro. Prima edizione. E siamo ancora ad Herat con il colonnello italiano Vincenzo Lauro. Colonnello, quanta forza d'animo ci vuole per stare così tanto in un paese come l'Afghanistan a lavorare? Perché poi voi lavorate in una situazione così difficile. Si è parlato di questo per i soldati americani, ma anche noi italiani siamo da tanto tempo in Afghanistan. Com'è? Quanta davvero forza ci vuole? Ogni soldato ha la motivazione di servire il proprio paese e in questo momento il nostro paese ci richiede l'impegno e il sacrificio anche delle nostre famiglie qui in Afghanistan e quando soprattutto troviamo dei riscontri sul campo la motivazione viene alimentata e i problemi, la stanchezza e anche la nostalgia di casa vengono superati di slancio, glielo assicuro. Cosa scatta quando si fanno dei gesti, delle follie del genere? Forse c'è stato, diciamo così, poco controllo da parte dei suoi superiori, secondo lei? Guardi, noi abbiamo chiaramente veramente una vita operativa molto intensa e questi commenti lasciano il tempo che trovano. Noi pensiamo. Sì, è difficile da qui capire quanto sia difficile per voi, perché siete in situazioni difficili, insomma. Siamo in una situazione che ci permette di poter gestire delle crisi, siamo preparati per questo, abbiamo chiaramente una professionalità, un'esperienza che ci permette di poter affrontare qualunque tipo di crisi che potremo incontrare nel nostro operato. E dovremmo essere alla fine della permanenza in Afghanistan. Abbiamo tempo solo per una battuta. Lasceremo un paese diverso o no? Un paese sicuramente migliorato. i miglioramenti sono visibili, da bambini che ormai vanno a scuola in quasi tutto il territorio, all'assistenza sanitaria, a più sicurezza, soprattutto per la libertà di movimento che permette di poter avviare tutte le attività umane e soprattutto lo sviluppo economico. Un paese che da sempre è capace di avere un'imprenditoria molto, molto accesa su tutto il Medio Oriente, ma soprattutto creare quelle condizioni di buon governo di chi ha la responsabilità di rappresentare il popolo e di portare avanti gli obiettivi per far crescere sempre di più questo paese. È davvero un messaggio di ottimismo in tutta questa situazione che invece vi abbiamo raccontato. E speriamo davvero che sia così, ma grazie intanto davvero per questo messaggio di ottimismo. Saluto da Herat il portavoce al comando contingente italiano, il colonnello Vincenzo Lauro. Grazie davvero per essere stato con noi questa mattina. Buona giornata, buon lavoro. Noi siamo qui soprattutto per l'ottimismo. Grazie e buon lavoro. E buona giornata, buon lavoro anche a tutti voi naturalmente che ci state ascoltando. Noi tra pochissimo ci sentiamo con GR24, prima edizione invece. Finisce qui Peter Bescapè, Viola Bottoni, come sempre grazie ad ogni mattina. Tra pochissimo, buon martedì da Anna Migliorati.